Noi abbiamo occupato, insomma, le case di via Borgolocchi il 28 aprile. Insomma, oggi sono 2 settimane di occupazione qua in via Borgolocchi, che sono le case della ex caserma Masini, di proprietà Cassa Depositi e Prestiti. Migliaia di metri quadri lasciati all'abbandono dopo uno sgombero forzato di fretta, insomma, in un agosto del 2017. Quindi dopo 6 anni di abbandono, e poi abbiamo fatto anche un'assemblea giovedì 4, in cui uno striscione diceva: il potere distrugge e lascia le macerie, perché è questa cosa qui. E adesso che la mobilitazione studentesca, che le accampadas in varie città d'Italia hanno costretto anche alla parola pubblica la ministra Anna Maria Bernini, nonché Valditara, insomma, che si è dimostrato uno dei peggiori ministri della storia della Repubblica anche con le dichiarazioni che ha fatto, insomma, abbiamo voluto rispondere in qualche modo al dibattito politico, insomma, che c'è adesso, vedendo anche le dichiarazioni non solo della Bernini ma anche del sindaco Lepore e del rettore Molari sull'utilizzo delle ex caserme. Noi crediamo che l'ex caserma Masini, insomma, debba tornare alla città. Noi in qualche modo lo stiamo facendo, abbiamo aperto, insomma, le case con persone che lavorano, migranti, ma siamo anche studenti, precari, insomma, chi arriva anche dall'esperienza di Casa Vacanta ad ottobre. Noi crediamo che le ex caserme debbano tornare disponibili, debbano essere restituite alla città, le case, come anche l'immenso piazzale che c'è qui nell'ex caserma Masini. Le ex caserme utilizzate appunto per dare una risposta anche al problema abitativo, ma voi che percorso vi immaginate? Un percorso di autorecupero o siete favorevoli anche a progetti urbanistici di riqualificazione per realizzare alloggi? L'ex caserma Masini è stata sgomberata nel 2017 dal collettivo La Bacca la occupava, che poi adesso ha sede in vicolo Bolognetti, perché c'erano fantomatici investitori, progetti di riqualificazione che poi in realtà si sono rivelati nulli, non effettivi. Insomma, crediamo che ci possa essere un percorso di utilizzo temporaneo di questi spazi. Di fatto lo stiamo già utilizzando temporaneamente. Questi immobili, noi crediamo che in qualche modo debba tornare alla città, chiaramente non in mano a privati, a speculatori, a investimento, come anche i fondi, i 660 milioni sbloccati ieri dalla ministra Bernini del PNRR, che abbiamo già denunciato, insomma, quando la ministra Bernini si era presentata qua a Bologna all'inaugurazione dell'ennesimo campus in via Valverde e poi l'incontro dell'1 aprile. Noi crediamo che i fondi non debbano andare a privati, a investitori, a stranieri, a fondi di investimento, ma bisogna trovare un modo, insomma, in cui le caserme tornino nella disponibilità della città in modo, insomma, accessibile. A OM vi aspettate quindi dalle istituzioni una forma di riconoscimento che, come dire, non metta a rischio ovviamente quello che state facendo? Si può dire di sì. Il punto è che bisogna avere soluzioni abitative immediate in questa città. Anche il piano casa dell'amministrazione comunale è positivo, comunque è importante, ma vedrà, secondo le nostre valutazioni, i suoi frutti quantomeno a fine mandato, in 2, 3, 4 anni, insomma. Quello che vogliamo noi è soluzioni abitative immediate. L'occupazione è una soluzione abitativa immediata, insomma, per quelle persone che riusciamo ad ospitare, per cui sì, un riconoscimento magari politico di questa cosa, ma insomma anche guardando al futuro, un utilizzo temporaneo di questa caserma credo sia, possa essere la soluzione, come anche, diciamo, vari esponenti della politica e delle istituzioni hanno proposto per le caserme.